modo qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore. Scusate, buonasera a tutti, benvenuti a Radio Alma, ma sono entrata nel clima di questa puntata di 100 città perché oggi andiamo vicino alla Valsugana, andiamo proprio a nord-nord dell'Italia, ci fermiamo in Trentino Alto Adige e andiamo a Trento. Trento presenta tante differenti realtà territoriali e di popolazione. La popolazione comunale non è presente solo in città, ma anche in numerosissimi centri sparsi che sono chiamati sobborghi, estremamente diversi l'uno dall'altro e che conservano ancora una propria identità sia urbana che montana. La città antica conta 80.000 abitanti e pensate che in totale Trento ha 120.000 abitanti. Tra i sobborghi, quello più abitato è Gardolo, che si trova a nord di Trento e ha quasi 13.000 abitanti, mentre quello meno abitato è Sciardania, che ha solo 1.000 abitanti. Pensate che questo paesino di Sciardania è posto a ovest di Trento ed è situato su un piano roccioso che per raggiungerlo bisogna andare su una funivia perché si trova a 560 metri di altezza. A Trento, magari andando a Trento a farsi una bella vacanza, è possibile visitare il centro di ecologia alpina, il giardino botanico, oppure potete iniziare una bella escursione verso la riserva naturale delle Tre Cime del Bondone. Trento è veramente verdissima e per il 70% è ricoperta di boschi e di aree agricole. Allora, adesso ci ascoltiamo una canzone, Sangue Blu, degli Studio Staff, e torniamo tra poco con la verdissima Trento. Abbiamo un problema in regia, il nostro Giulio è alle prese con le macchine, l'ha lanciata, non ci siamo, ma niente, continuiamo a parlare, un problema tecnico. Ciao Giulio, benvenuto intanto. Ciao. Capita a tutti. Iniziamo anche nel migliore dei modi. Ma no, anche ai migliori come te. Si è spento il computer. Si è spento il computer, siamo veramente fortunati. Si sta riavviando, con calma arriveremo. Chissà cosa potrà succedere alla fine di questa trasmissione, visto potrà scoppiare qualcosa, non lo so. Vabbè, confidiamo nella fortuna, Giulio. Cosa dobbiamo fare? Allora, comunque, continuiamo a parlare di questa Trento. Durante la conquista romana, Trento viene battezzata Tridentum, ovvero città dei tre denti, perché nei pressi della città sorgono proprio tre colli vagamente assomiglianti a tre denti e la città diviene municipium tra il 50 e il 40 avanti Cristo. Ah, a Trento troviamo tantissime bellezze monumentali, per esempio la cattedrale di San Vigilio, che è praticamente il Duomo di Trento ed è situato, guarda un po', in Piazza del Duomo, e San Vigilio è anche il nome del patrono della città. Ma oltre alla cattedrale di San Vigilio abbiamo la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove al suo interno vi sono le tele, pensate un po', di Cignaroli e di Moroni. Ma non si ferma qui, troviamo anche per esempio il Castello del Buon Consiglio, che rappresenta l'edificio, penso, più conosciuto della città. È stato eretto nel 200, ha ospitato per 5 secoli i principi e i vescovi di Trento. Poi abbiamo la Torre Civica, che è stata costruita prima dell'anno 1000 accanto a Palazzo Pretorio, e praticamente su di essa è presente un grande orologio e all'interno si trova la campana dell'Arenga, ovvero la campana che chiamava l'Arrengo, che sarebbero le pubbliche assemblee e le condanne a morte eseguite nella sottostante Piazza Duomo. Quindi direi che la cosa è un pochino inquietante. In provincia di Trento sono numerosi anche i forti e le fortificazioni che risalgono alla prima guerra mondiale, che sono stati costruiti dall'impero austro-ungarico, e alcuni li potete vedere ancora in buono stato di conservazione, invece altri sono visibili solo i resti. Ma a Trento potete trovare anche tantissimi bellissimi musei. E infatti, per esempio, presso gli ampi ambienti del Castello del Buon Consiglio vengono organizzate le collezioni artistiche provinciali. Mentre, dimmi, Teda, Giulio, non vorrei farti morire, no. Se vuoi abbiamo una canzoncina da metterti. Grazie, così respiro, così, per caso respiro. È Sangue Blu? No, non è Sangue Blu. È un'altra. Dovrei accontentarti. Dovremmo avere gli After Hours. Grande, dovremmo perfetto. Avere gli After Hours. Allora via con gli After Hours. Ciao, a tra parte. Poco. Ciao. La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso fra di noi. Ti manca e quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero. Ciao, bentornati a Radio Alma con Dede e Giulia. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma adesso siamo pronti a fare questa puntata senza più problemi, vero Giulio? Tranquillissimi. Ok, allora, parlavamo insomma dei monumenti, dei musei di Trento. Il Palazzo delle Albere, per esempio, ospita la sezione trentina del Museo d'Arte Moderna e troviamo una collezione permanente dall'Ottocento ai primi del Novecento, e troviamo per esempio il romantico Francesco Hayez al futurista Boccioni, e organizza numerose esposizioni temporanee. Poi vi è il Museo Tridentino di Scienze Naturali, è strutturato su un spazio di 21 sale e organizza diverse mostre temporanee. Molto caratteristico è praticamente il museo che riguarda la Società degli Alpinisti Tridentini, e raccoglie un'ampia collezione di foto, documenti e cimeli relativi alle montagne e alla storia dell'alpinismo del Trentino. Inoltre Trento vanta la presenza di centri di istruzione e di ricerca scientifica veramente all'avanguardia, come l'Istituto Trentino di Cultura, che è stato fondato nel 1962 e si occupa di ricerca sia in campo umanistico che scientifico. Dal 2007 questo istituto ha preso il nome Fondazione Bruno Kessler, e pensate, all'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'Istituto per gli Studi Storici Italo-Germanici, l'Istituto per le Scienze Religiose, chi più ne ha più ne metta. Addirittura, sentito qua, Trento quant'è organizzata, è piena di cose, chi se l'aspettava, no Giulio? Madonna, mai, non me lo sarei mai aspettato. Mai. E allora sai che l'Università di Trento è stata fondata nel 1962 come Istituto Universitario Superiore di Scienze Sociali, ed è uno dei più prestigiosi atenei medio-piccoli italiani, con una forte vocazione internazionale. Quindi magari lanciamo un messaggio, no, ai ragazzi che vogliono intraprendere la carriera universitaria e sono un po' indecisi: ragazzi, guardatevi il sito dell'Università di Trento, perché trovate dall'economia all'ingegneria, la matematica, a lettere, insomma trovate un po' di tutto. Poi, per quanto riguarda la musica, ci sono veramente tantissime cose interessanti da dire, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone. Vai! Ciao a tutti, stiamo parlando di Trento, questa è la trasmissione 100 città. Abbiamo appena ascoltato Looking for Happiness dei Biosystem 55. Vi stavo dicendo di Trento, stavamo parlando della musica, perché a Trento ha sede il Conservatorio di Musica Bonporti, che è una scuola di alta formazione musicale pubblica e statale. La sua prima finalità è la formazione di compositori, cantanti, strumentisti oppure anche insegnanti di musica. Per di più a Trento ha sede uno dei più prestigiosi cori italiani che ha fatto la storia del canto corale popolare, ovvero il coro degli alpinisti, e anche il coro polifonico, ovvero la corale Città di Trento, fondati nel 1889 e ad oggi diretti da Roberto Giannotti. La città di Trento è sede di numerose manifestazioni che durante l'anno contribuiscono a rendere veramente piacevole il panorama culturale locale. Per esempio abbiamo il Trento Film Festival, che è veramente particolare perché è un festival cinematografico internazionale che è dedicato alla montagna. Poi ne abbiamo uno un po' più serioso, che è il Festival dell'Economia, dove c'è un appuntamento annuale dove si incontrano tutti gli economisti a parlare, guarda un po', appunto, di economia a livello nazionale ma anche internazionale. Ma tornando alla musica, vorrei soffermarmi un attimo sulla Corale Città di Trento. Infatti la Corale Città di Trento fu fondata nel 1889 e dal 1989 il coro è diretto da Roberto Giannotti. Il coro è regolarmente invitato a festival corali in Italia e in diversi paesi europei, come per esempio la Francia, la Germania, la Grecia, la Spagna, e il repertorio spazia dal canto gregoriano alla musica contemporanea. Magari avete curiosità di sentire un po' queste canzoni, di ascoltarvi un po' di musica particolare, allora il materiale di questa orchestra, di questo coro è stato registrato nel CD Trento e la musica sacra dal Concilio al Settecento. Ma parlando sempre di musica, c'è anche la musica dei giovani, le band emergenti che hanno tanta voglia di farsi sentire. Allora c'è un centro di musica a Trento dove praticamente danno a disposizione più sale, danno la possibilità di simulare un concerto, e pensate che hanno fatto un CD che distribuiscono gratuitamente, che raccoglie 35 brani. E quindi sono aperti da 5 anni e abbiamo in linea un operatore del centro musica che si chiama Johannes, che ci racconta un po' come vanno le cose in questo centro, perché mi sembra veramente organizzata alla grande, ma ci dirà lui stesso, insomma, le cose come vanno a Trento. Benvenuto Johannes. Buonasera da Trento, buonasera. Buonasera. Allora, dunque, lei è un operatore del... ci possiamo dare del tu? Sì, madonna, certo. Ciao Johannes, allora, sei un operatore del centro musica qui a Trento e stavo leggendo che è veramente, dà tante possibilità, dà la possibilità di simulare anche un concerto. Sì, certo. Praticamente è stata una iniziativa dal comune qui da Trento per stimolare un po' le attività giovanili, e perciò qui si trova sala attrezzata, con le casse, con la batteria, e così possono venire i ragazzi giovani qui a fare le prove. Ovviamente noi possiamo organizzare anche i concerti, uh-huh. E in più abbiamo anche una sala di registrazione dove i ragazzini oppure i ragazzi possono anche registrare il loro disco di demo, e uh-huh. Così quando vogliono suonare fuori di Trento in un bar, possono far vedere ai baristi il disco demo, certo. E così via. E finora i ragazzi mi sembravano abbastanza contenti. E ho visto. Soprattutto è una cosa che esiste, mi sembra, solo qui a Trento. È vero, perché ho visto che anche nel sito, nel vostro sito, praticamente vengono caricate le canzoni di questi gruppi. Sì, infatti. Allora, questa è stata in elaborazione da poco tempo, uh-huh. E mi sembra che i nostri tecnici sono riusciti a caricarli. Sì, li ho anche ascoltati. Abbiamo creato una base di collegamento tra i gruppi, uh-huh. Perché ovviamente qui passa tanta gente, tanti ragazzi oppure anche persone un po' più vecchie, e magari si conoscono da vista ma non sanno che tipo di musica fa l'altro gruppo, certo. E allora appunto attraverso il sito i ragazzi microfono, vedere appunto che tipo di musica faranno gli altri, e così fanno passare la musica agli amici, mm-hmm. e così via, e così appunto riescono a promuovere un po' le loro attività musicali. Ma Johannes, scusa, volevo sapere com'è la scena un po' a Trento a livello di musica giovanile? Allora, appunto, io non sono da Trento, io vengo dalla Germania. Io sono rimasto proprio stupito quando sono venuto qui, perché è una città di, diciamo, 100.000-150.000 abitanti, mm-hmm. e praticamente non ho mai visto una cosa così. Qui esistono così tanti gruppi anche fuori dal Ma che genere? Metal? Perché io non so perché ho questa idea, quando penso Trento, Germania, mi viene in mente il metal subito. Il diretto. Metal, infatti qui ci sono tanti tanti gruppi. Ah, allora non mi sbaglio. Sì, guarda, qui ci sono tanti tanti gruppi metal, e qui al centro musica è piuttosto un centro dove si mescolano un po' i gusti, anche i gruppi, tipo ci sono gruppi. 5 ragazzi che suonano metal e dopo cambiano il gruppo, e il chitarrista metal si mette insieme con un gruppo blues, e da nuovo viene fuori una nuova creazione abbastanza particolare, e perciò qui c'è dal punto di vista musicale tanto movimento, sì. Benissimo, allora Johannes, ci lasci il sito, perché così magari quelli che si sono incuriositi a sentire queste informazioni sul centro musica magari vanno a vedere, magari vi contattano, no? Sì, certo. E il sito è? Il sito è www.centromusica.trentogiovani.it. Perfetto. E allora chiedete di Johannes, che vi aiuterà in qualsiasi vostra richiesta. Oppure anche i miei colleghi, Mauro e Paolo. Anche i tuoi colleghi. Certamente. Ti ringraziamo tantissimo, Johannes, e complimenti. Grazie a voi, buona serata. Ancora. Buona serata. Grazie, Johannes. Grazie. Ciao. Allora, Eda, ma tu l'avevi per caso intuito che era un po' tedesco? No, non l'avevo proprio capito. Io dall'accento pensavo addirittura che fosse quasi meridionale. Poi dopo tu mi hai illuminato e mi hai detto che forse poteva non essere del Trento, ma straniero. Ma aveva un leggero accento, non è che si sentisse molto, dai. Un leggerissimo accento. Un leggerissimo accento. Allora, vabbè dai, adesso cosa facciamo? Ascoltiamo un po' di musica? Sì, adesso ci ascoltiamo in linea 77. Questa sera Deda ha fatto una scaletta durissima. Facciamo un è po' arrabbiata. Di legna quella musica, sono arrabbiata. Questa sera sono arrabbiata con te, Giulio. Addirittura. No, assolutamente. Allora via con in linea 77, la canzone è Mocca. We'll be right back. Allora, ciao, siamo a Radio Alma, stiamo parlando di Trento. Siamo stati in linea con Johannes, che è l'operatore del centro di musica di Trento. Se volete andare a informarvi, il sito è www.trentogiovani.it e vedrete quante cose mette a disposizione questo centro. Ma comunque continua questa città a andare sempre incontro ai giovani, non solo con la musica, ma anche col teatro, la danza, la grafica e la scrittura. Infatti il piano di politica giovanile dà molta rilevanza alla creatività ed espressività artistica dei giovani nelle sue varie forme, in quanto opportunità di crescita e come occasione per socializzare. E supportano questi giovani attraverso il supporto progettuale, la collaborazione organizzativa con la fornitura di alcune attrezzature e il sostegno economico. Si occupano di sostenere diversi ambiti come il teatro, la danza, la grafica o anche la scrittura attraverso l'avvicinamento alle tecniche e ai linguaggi creativi. Addirittura c'è uno spazio online per poesie e racconti brevi. Quindi tantissima arte, tantissima musica, tantissima voglia di investire sui giovani. E a questo punto sentiamo una voce reale di un ragazzo che canta in un gruppo di Trento che si chiama Terzo Livello, e sentiamo un po' com'è la situazione musicale in questa bella città. Allora, diamo un benvenuto a Francesco Nardelli, Terzo Livello. Ciao! Allora, che ci racconti? Che vi racconto? Io sono molto contento che mi avete chiamato e innanzitutto voglio salutare un po' tutti gli italiani a Bruxelles e gli italiani all'estero. Grande! E che dire, noi come Terzo Livello siamo una band che suoniamo da circa 5 anni, un po' nel panorama italiano. Abbiamo fatto diverse cose, abbiamo suonato tanti festival, abbiamo aperto per anche delle grosse band a livello mondiale e diciamo che un po' adesso ci stiamo un po' muovendo all'interno dell'underground. Abbiamo trovato anche di recente un contratto discografico con un'etichetta inglese, quindi poi l'anno prossimo uscirà il nostro disco che è distribuito sì a livello mondiale. Ma come mai sempre inglese? Come mai un'etichetta italiana mai in questo periodo? Sempre straniero? Diciamo che è un po' paradossale questa cosa. Noi in tanti anni non siamo mai riusciti a trovare un contratto discografico con un'etichetta italiana. Questo è dovuto al fatto che in Italia la mentalità delle persone è un po' ancora legata solamente al mainstream, no? Non c'è questa mentalità di supportare l'underground. Già. Per cui diciamo che è molto difficile per delle band underground emergere. E questo purtroppo è un problema, perché c'è tanto talento, ci sono tante band, la qualità è alta. Anche noi in Trentino abbiamo band di grandissima qualità, però non ci sono gli spazi, no? Ma senti, ma come mai lì, no, a Trento andate in un'etichetta inglese e non in Germania? Perché il vostro genere, che dopo sentiremo una vostra canzone che si chiama Los Angeles Clouds, come mai non avete magari sfondato in Germania? Perché in Inghilterra? Io credo che l'Inghilterra attualmente sia uno dei paesi che ha maggiore attenzione per l'underground. È un po' rinomata l'Inghilterra per essere una terra dove delle band nascono, diciamo, un po' dal niente e diventano subito famose, no? Mi viene in mente per esempio di recente gli Enter Sicari, che sono una band che è uscita da una piccola etichetta e adesso sta facendo un tour americano molto grande. Sì. Ma anche tante altre band italiane che noi conosciamo, loro riescono all'estero a trovare tanto spazio, mentre in Italia non lo trovano. E senti, lì adesso a Trento voi fate delle serate, vi muovete, che cosa fate? Ma allora, io ti parlo anche da organizzatore di concerti, perché faccio parte di un'associazione che a Trento e un po' anche nel Triveneto organizziamo dei concerti. E cerchiamo un po' di sostenere l'underground chiamando band un po' da tutta Italia e qualche volta anche dall'estero. Non è facile, perché come ti dicevo la mentalità della gente non è quella di supportare l'underground, ma più che altro di seguire il mainstream, no? Sì. E questo lo vedo anche dal fatto che per esempio i gestori dei locali prediligono band tributo piuttosto che band che fanno brani originali. Senti, come si chiama la tua associazione? Metal Party. Metal Party. Ah, visto che c'è parecchio metal a Trento. Allora è vero. Abbiamo parlato prima con un altro ragazzo di una... C'ha la prove. Centro Musica, lo conosci il Centro Musica di Trento? Sì, lo conosco, collaboriamo con loro anche ogni anno, perché organizziamo insieme a loro un evento dove diamo spazio proprio alle band di giovanissimi, quelle che si sono appena formate, non riescono ancora a suonare nei locali, no? Però hanno tanta voglia, tanto entusiasmo. Ascolta, ci dai il tuo sito, il sito anche dell'organizzazione Metal Party? Sì, allora, il sito web è www.metalparty.it. Ok. Il sito è un po' un MySpace quasi per le band metal, per cui ci si può registrare, avere un profilo, no? Poi abbiamo un forum di discussione molto, molto frequentato. Benissimo. È un po' un punto di ritrovo, diciamo, sia per il Trentino, ma lo sta diventando anche un po' per tutto il nord Italia. Bello, bello. E poi il tuo sito? Il sito della band è www.terzolivello.com e ci sono tutte le news, è anche scritto in inglese, quindi diciamo un po' tutti lo possono capire e leggere. Oh, capito. Il prossimo concerto? Ma attualmente siamo fermi, quasi totalmente fermi con i live, perché stiamo preparando appunto l'uscita del disco e abbiamo moltissimo da lavorare, quindi tutto la fine 2008 e i mesi del 2009 li impiegheremo, diciamo, a preparare la registrazione del disco. Quindi per ora niente live, però potete seguire, insomma, le evoluzioni della nostra carriera, tra virgolette. Ho capito, sito. Nel sito. Ascolta, noi ti ringraziamo tantissimo. Tu suoni la chitarra, vero? Sì, nel terzo livello. Chitarra. Allora. Ma Deda, io volevo fare un'ultima domanda. Certo. Probabilmente un po' stupida, Francesco, spero non me ne voglia. Sì. Ma tu, che tu sappia, esiste del metal in tirolese? Del metal in tirolese? Sì. Sì. Potrebbe essere l'idea vincente, è vero? Può essere una bella idea, eh? Può essere io una bella ci penserei, se esatto. Pensateci, ragazzi. Sì, ci penserei. Allora, vi lasciamo con questo spunto che vi ha lanciato Giulio, che mi sembra veramente interessante. Le band underground vi ringraziano perché avete questa associazione che si chiama, abbiamo detto, Metal Party. E ringraziamo soprattutto Francesco Nardelli del terzo livello. E in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Allora, adesso ci sentiamo una vostra canzone. Grazie, ciao. The victim has been cut in half, all organs removed, blood drained from the body, and the mouth sliced ear to ear. We'll be right back. Ciao, siamo tornati in trasmissione con 100 città, sempre con Trento, e ora c'è un momento ludico, diciamo, perché andando nel sito del Comune di Trento troviamo proprio tutto: la musica, il teatro, lo spettacolo, le ricette, ma anche dei simpatici giochi che si possono fare tra le montagne verdi di Trento. E infatti ogni giorno trovate dei giochini nuovi e divertenti. Per esempio il gioco Svuota la bacinella. Allora prendete due bacinelle e due spugne da autolavaggio e fate due squadre. Il fine di questo gioco è riempire la spugna, svuotarla in un tombino sarebbe meglio, e la squadra che svuota per prima la bacinella vince. Altrimenti c'è anche una variante, c'è scritto nel sito, potete cercare di riempire con la spugna una bottiglia e la squadra che riempie per prima la bottiglia vince. Fantastico, veramente Trento, il Comune di Trento pensa veramente a tutto. Ma ora passiamo ai proverbi, perché magari camminando per Trento potreste incontrare l'alpinista saggio che vi potrebbe dire una cosa tipo: chi gabraga paga, chi gavesta gode la festa. Ovvero, l'uomo paga, la donna gode la festa. Oppure potrebbe anche dirvi una cosa del genere: baso de dona, varda che el ten coiona. Ebbene, non fidarsi del bacio di una donna. Quindi attenti, perché l'alpinista saggio potrebbe darvi questi consigli e voi ovviamente li dovreste seguire. Oppure potrebbe dirvi anche: donne, orologi e cavalli non se garantis mai. Le donne, gli orologi e i cavalli non si garantiscono mai. Ma vedo Giulio che è alle prese con una telefonata. Sì, Deda, qua mi dispiace dirtelo, ma abbiamo una telefonata di protesta. La prima telefonata di protesta del programma. E siccome faccela siamo... sentire mentre sì, tu discuti con questa persona, perché... Adesso ti metto in linea, perché è giusto così, è giusto dar voce a tutti, insomma. È giusto dar voce a tutti, noi siamo aperti a tutti. Vai, sei in linea. Pronto? Io devo protestare perché non accetto assolutamente una cosa del genere. Ma scusami, chi abbiamo in linea? Ma come chi ci abbiamo in linea? Chi sono io? Io sono Placidio della Valdega, grande corista del Coro di Trento. E cos'è? Ma stiamo scherzando, perché voi poveri ignoranti mettete su soltanto quel rock, quel metal che rompi coglioni, invece di mettere su la musica che fa bene alle orecchie come un bel cuore del Trentino. No, guarda, lei non si deve arrabbiare. Ma sente il sottofondo musicale che abbiamo adesso in radio, è una musica tipica, abbiamo no? Abbiamo una base stupenda tirolese. E quindi... Se bea quella roba lì, dovete mettere sul cuore del Trentino. Il maestro Van Fulger sarà sicuramente arrabbiatissimo per la vostra condotta veramente indegna. Non si può. Noi siamo sinceramente dispiaciutissimi, ma se lei vuole potremmo rimediare in diretta. Potrebbe cantarci qualcosa, non so, qualcosa di tipico, un pezzo di bravura, non so. Sì, beh, io faccio un po' come Paganini, io non è che sono un jukebox che vado automatico, io sono un professionista e se non ho il microfono io non è che mi metto a cantare, ma voi da dove trasmettete? Posso sapere di dov'è questa Radio Alma? È della Valdega? Noi la invitiamo, siamo a Bruxelles. Siamo a Bruxelles, la capitale d'Europa. A Bruxelles? Sì, Bruxelles. Sì. Ah, Bruxelles. Oh, Ugo, ciao Radio Bruxelles, sei bello. Ugo, sei il mio cane. Più nel coro, fai il contrabbattato, è bravissimo, il maestro va più, veramente contento. Da, è la vostra grande occasione per andare in duetto, in diretta europea. Beh, voi volentieri, perché veramente Bruxelles, grande tradizione di coristi in Polonia, veramente molto bello. No, in Polonia... Cioè, no, lei beh, evidente, forse non ha studiato bene la geografia in questi comuni autonomi. Guardi, noi le chiediamo un pezzo qua in diretta per così allietarci. Per salutarci, rimediare a questo incidente diplomatico. Mi preparo. Sento che si prepara. È pronto, prego, quando vuole, maestro. Sto preparando i contralti. Siamo tutti pronti? Pronti, okay, pronti? Prontissimi. Con la base sotto. Sì, prego. Prego. Bene, bene, io la ringraziamo e grazie di è caduta la linea, è caduta la linea. Vabbè, capita a tutti, noi siamo aperti a tutto. Ovviamente questa persona ha sentito queste musiche un po' pesanti e lui si è sentito in dovere di chiamarci. Secondo me era bravo, aveva un suo stile. Sì, secondo me si sentiva che c'era della che tecnica. Non siamo abituati, Deda, non siamo abituati, è troppo avanti per noi. No, non abbiamo l'orecchio fino. Troppo avanti. Non abbiamo veramente l'orecchio fino. Comunque stavo parlando dei proverbi e ti stavo dicendo, Giulio, no, che tu se vai a Trento potresti incappare nel cosiddetto alpinista saggio. Chi è questo alpinista saggio? L'alpinista saggio è colui che sa i proverbi e ti mette in guardia prima che tu sbagli. Per esempio? Quindi dovresti ascoltarlo, perché lui ti direbbe: alle done e alle scale non se ghegira mai le spale. E sai cosa vuol dire? Beh, insomma, interpreta un po': alle donne e alle scale non devi mai voltare le spalle. Perché alle scale? Qua non lo so, lui lo sa. Lui è saggio. Lui sa è che saggio in montagna e sa che forse donne... vuol dire la salita, scale nel senso di salita. L'interpretazione la potrai fare direttamente con lui quando lo incontrerai a Trento. Ma comunque, uomo avvisato, mezzo salvato, perché dopo ti potrebbe dire un altro proverbio che ti potrebbe dire: baso de dona, varda che è il tencoiona. Questo non l'hai capito e vuol dire: è bene non fidarsi del bacio di una donna. Quindi mi raccomando, ascolta l'alpinista saggio, perché ti salva da eventuali sbagli che potresti fare in amore. Ma comunque, una volta ho conosciuto un alpinista saggio di pochissime parole, però ha umiliato me e tutti i miei amici scalando una montagna, arrivando fino a 3000 metri, quando noi ci siamo fermati a 2000. Ah. E la cosa più umiliante è che lui era partito la mattina, noi pieni di panini con salame, mozzarella, tutte queste bontà romagnole, lui con 3 pomodori ha scalato la montagna. No, non ci posso credere, questo è il duro allenamento. Questa vedi? È una cosa di cui non vado per niente fiero. Ma questo è il sangue montano, non ce lo possiamo avere, ci devi nascere. Però strano 3 pomodori, sai, perché in Trentino mangiano abbastanza pesante. E infatti ci sono cose tipo, no, il lardo, una cosa leggera, oppure non c'è... va la polenta più in Veneto? No, non mi sei preparato, perché la polenta qua non è citata. Cioè il lardo, il probusto. Forse hai delle fonti sbagliate. No, sono esatte, me le ha date direttamente uno del posto. Non le ho il corista trentino. Me le ha dato il corista trentino. E poi ci sono i sanguinacci, che sono fatti col sangue di maiale. E poi ci viene messa l'uvetta, il cioccolato e quant'altro. Poi c'è il salame all'aglio, i cotechini, la carne salata, le salsicce, insomma, così un po' per star leggeri. E ho giusto qua una bella ricetta da consigliare ai nostri ascoltatori, che tu sicuramente conoscerai. E si chiama, sono i canederli, li conosci, no? Di nome. I canederli. Di nome, ma mai provato. E che cosa sono? Non lo so, di nome. Allora, praticamente adesso ti spiego la ricetta. Vai. Questi canederli li dovresti fare con il formaggio puzzone. Si chiama così, formaggio puzzone di Moena. E gli ingredienti sono 300 g di pane raffermo, del latte, poi lo scalogno, la farina, le uova. E dovete tagliare il pane a dadini, togliere la crosta. E praticamente dovete mettere il latte sul pane finché non si ammorbidisce. Deda, sì. Scusa se ti interrompo, ma da come me lo descrivi, a me ricorda molto il mangiare dei gatti che preparava mia mamma. No. Con gli avanzi. No. Questo è veramente un piatto prelibato ed è veramente una cosa caratteristica del posto. Probabilmente sbaglio io. Perché tu devi fare questa polpetta, no? Che c'è di tutto, ci sono questi dadini di pane e c'è questo formaggio puzzone in mezzo. Il formaggio puzzone. E poi devi metterci sopra del buon burro fuso e poi servirli belli caldi. Allora, la prossima volta ti voglio preparato, perché mi devi fare questo piatto squisito. Allora, intanto che studiamo la ricetta, ci ascoltiamo una canzone che è... È una canzone dei Junkie. Di Jar of Bones. Uh-huh. E torniamo di nuovo al metal pesantissimo. E vai. E facciamo per la felicità del nostro maestro della corale del Trentino. Esatto. I won't kill my life into this world. Nothing seems to be like when I'm done. You Sempre 100 città, sempre qui su Radio Alma con Deda e Giulia M in regia. Allora, continuiamo a parlare di questa splendida città veramente organizzata che va sempre molto incontro ai giovani e sempre per andare sempre più incontro ai ragazzi sono stati organizzati i cosiddetti piani giovani di zona e sono spazi privilegiati delle politiche giovanili attraverso tavoli di confronto e proposta per dialogare, progettare, favorire la partecipazione dei giovani attraverso dei spazi di comunicazione con i mondi dei ragazzi e con gli attori del territorio, quindi mettono in collegamento i ragazzi con i soggetti politici, sociali, gli economici portatori di competenze di volta in volta fondamentali per arrivare a condividere dei piani giovani di zona che definiscono specifici programmi e di azioni a favore dei giovani. Quindi un ragazzo che magari non gli va bene qualcosa oppure ha un'idea in particolare da poter attuare nella propria città può andare nel sito e proporre al comune di Trento una sua idea o qualcosa che vorrebbe che si facesse in quella stessa città ed è veramente veramente interessante. A Trento in questo periodo potreste trovare la mostra d'arte aborigena italiana che è iniziata il 15 ottobre, cioè fino al 21 novembre e ci sono le opere di 50 artisti provenienti da 12 regioni dell'Australia, dipinti su tele, corteccia, carte, serigrafie e sculture. Oppure potreste andare all'evento che si chiama Tutti nello stesso piatto, il futuro del cibo, dove si parla di cambiamenti climatici, organismi geneticamente modificati e sicurezza. Insomma, trovate anche tanti eventi in questo periodo e quindi non avete più scuse per non andare a Trento perché veramente trovate tanto verde, trovate cibo buono, trovate eventi interessanti, trovate persone ospitali e tanto altro ancora. Allora, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e ci sentiamo tra poco. Thank you. Bentornati, siamo in chiusura di questa puntata di 100 città. Oggi abbiamo parlato di Trento e quindi facciamo un po' il riassunto. Abbiamo parlato dei suoi splendidi monumenti, abbiamo parlato di quanto si mangia bene in questa bella città, degli eventi che potete trovare, della musica, del teatro, della danza. Allora, tutti a Trento, e magari se ci andate d'estate trovate anche un po' di fresco, perché pensate che a luglio la temperatura più alta che si può trovare è di 22 gradi. Allora vi saluto, ci rivediamo il prossimo giovedì con la prossima puntata di 100 città con Deda e Giulio. Grazie, ciao, ciao. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. C'era Babilonia, io che mi perdevo dentro gli autobus di Mamma Roma. Un dramma, stamattina devo farcela ad entrare a scuola. Minacce non potevano convincermi. Venti d'oltreoceano che soffiavano all'inizio finivano lì. Ero già lì anche se il freddo era deciso a pungere, per assaggiare i primi sorsi di inquietudine. Eppure stavo lì, anche uno zero mi valeva gloria. Lì a via del corso c'era il rap fuori da Babilonia. Era la magia dentro l'hi-fi, la strada mia che si oggi vive perché allora c'erano quei focolai. Poi non so altro, si spinge oltre un'etichetta e si riassume dentro un solo sguardo. Per i miei sono una fissa passeggera, solo che oggi non sarei ancora in campo con le tigri a schiera. Una passione che dura da allora, nessuna foto può darti la storia scritta nei giorni.